una pandemia. Tra l'altro i casi continuano a crescere, si abbassa sensibilmente l'età di insorgenza delle persone che si ammalano, ma c'è una buona notizia: il diabete 2, lo abbiamo detto in apertura e lo sappiamo, si può prevenire. Ciascuno di noi deve fare la sua parte, diventare, come si dice, soggetto attivo nella promozione della propria salute e del proprio benessere. E allora oggi abbiamo costruito la puntata su tre parole chiave: informazione, perché oltre 1 milione di persone nel nostro paese è affetta da diabete senza saperlo. Mm-hmm. Prevenzione, perché il diabete di tipo 2 si può prevenire attraverso la correzione dello stile di vita, quindi abbandonate lo status quo a cui faceva riferimento il professor Martelli. E cura, perché oggi la persona con diabete può contare su terapie personalizzate e su strumenti di controllo molto sempre più intelligenti, che migliorando la gestione della malattia regalano qualità di vita e soprattutto tempo di qualità. Oggi insieme a noi è tornato il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Momenti il professor Martelli ce la portava via. Come facevamo? Cosa si saranno detti di così segreto? Vabbè. Allora, intanto io ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Dottor Bertuzzi, investiamo nella prevenzione oggi per la salute di domani, quindi delle nostra, dei nostri figli e del Servizio Sanitario Nazionale. Questo accenno all'investimento e al risparmio è d'obbligo in un salone del risparmio, perché si deve investire anche in salute, e la prevenzione è sicuramente l'investimento più redditizio. Dottor Bertuzzi. Si sa oggi, si conoscono le strategie per prevenire il diabete mellito di tipo 2, e quindi è chiaro che promuovere un corretto stile di vita, ad esempio una corretta alimentazione, promuovere l'attività fisica e ridurre anche il fumo ha sicuramente un impatto nella riduzione della comparsa di diabete mellito di tipo 2 e nella riduzione di conseguenza dei costi associati a questa patologia. Quindi prevenire vuol dire ridurre l'incidenza di una patologia per i pazienti, ma anche ridurre dei costi per il sistema sanitario nazionale. Abbiamo già Mauro che ci chiama da Milano. Intanto noi che cosa abbiamo bisogno di sapere, dottor Bertuzzi? Sicuramente il valore della glicemia dei nostri ascoltatori, e se non l'avete mai misurato, il dottor Bertuzzi ci farà un po' l'identikit della persona che senza affanno ma con buona determinazione dovrebbe magari confrontarsi con il suo medico curante e andare a controllare questo valore, che è un valore che racconta tante cose. Ma dato che la prevenzione passa anche da una corretta informazione, abbiamo pensato di proporvi alcune domande che abbiamo ripreso dal sito dell'OMS, che ha molto a cuore il diabete, perché i casi stanno aumentando in modo molto significativo. E allora questa serie di domande è stata proprio elaborata per misurare quanto sappiamo del diabete, della serie uomo ascoltatore avvisato mezzo salvato. Ascoltate questa batteria di domande, poi se avete voglia di chiamarci e mettervi alla prova 800 24 00 24. L'obesità aumenta il rischio di contrarre il diabete. Vero o falso? Il rischio di contrarre il diabete è più alto se un genitore ce l'ha. Vero o falso? Le persone con diabete di tipo 1 possono vivere senza insulina. Vero o falso? Il diabete può causare insufficienza renale e cecità. Vero o falso? L'attività fisica regolare non ha alcun impatto sulla prevenzione del diabete e delle sue complicanze. Vero o falso? Allora, 800 24 00 24, andiamo a sentire Mauro da Milano e poi, dottor Bertuzzi, le chiederei di farci capire esattamente che cosa succede quando nella nostra vita entra il signor diabete e diventa un nostro compagno di vita, il compagno della vita, no? Che ci starà con noi per il resto degli anni. Mauro, buongiorno da Milano, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Purtroppo sono in un tribunale, quindi posso fare, devo essere velocissimo. Non è che me l'arrestano in diretta, perché io farei un grande scoop, ma poi dovrei venire a portarle le arance. Mauro. Ascolti, mi è stato diagnosticato un diabete di tipo 2 da 4-5 anni, che è in cura semplicemente con metformina, che prendo 3 volte al giorno, una pastiglia 3 volte al giorno. Io ho una gran confusione, perché non ho capito qual è la frequenza della misurazione corretta della glicemia. Uno mi dice che devo misurarla 5 volte al giorno per una settimana, l'altro mi dice che devo misurarla 2 volte alla mattina, 2 volte, una volta al pomeriggio, una volta alla sera, a giorni alterni, e quindi questa mi crea una gran confusione. L'altra cosa che mi mette in imbarazzo è che quando misuro la glicemia a casa al mattino con diversi tipi di macchinette, che ho cambiato nel tempo logicamente, e poi subito dopo vado a fare un esame del sangue all'ospedale, il valore della glicemia rilevato all'ospedale è sempre più alto di quello che ho... riscontrato a casa. Un po' come succede con la pressione, a casa è bassa, dal medico è alta. Ecco, e poi Mauro, l'ultimissima cosa, volevo sapere, siccome a pasto io bevo sempre un bicchiere di vino, a pasto e a cena, se questo ha un problema, danneggia in qualche maniera, ha un'interferenza con la metformina. Mauro, grazie. Perfetto, lei ci fa fare puntata, se non l'arrestano venga qua che mi aiuta a fare le scalette. Allora, dottor Bertuzzi, andando per ordine, noi sappiamo che la glicemia si muove, ha delle variazioni nel corso della giornata, si alza ad esempio dopo pranzo, si abbassa quando digiuniamo. Mauro dice non capisco più niente, e questo è un'occasione anche per dire spesso non c'è comunicazione. Deborah tante volte insiste, no, il dialogo tra consulenti e risparmiatore. Come mai a Mauro non sono arrivate le giuste informazioni? Ma questa è solo la prima della domanda, poi i valori che cambiano a seconda del tipo di misurazione e poi il bicchiere di vino. Dottor Bertuzzi. Diciamo subito che per definire come è il compenso glicemico del paziente, quindi come va la glicemia nel complesso durante i mesi di un paziente, è importante misurare l'emoglobina glicata, che è un parametro che si misura in laboratorio una volta ogni 3 mesi con la collaborazione, con la prescrizione del medico di base. Questo ad oggi è l'esame più importante per definire il compenso di un paziente con diabete. Il ruolo dell'autocontrollo a domicilio, cioè della misurazione delle glicemie mediante i glucometri, dipende, l'intensità, la frequenza di questo controllo dipende dal tipo di terapia. Chi fa insulina necessita di 4-5 misurazioni al giorno, chi prende dei farmaci come la metformina, che è un farmaco relativamente sicuro per il paziente, che non mette in rischio al paziente di ipoglicemia, cioè di abbassamento eccessivo della glicemia, può fare un autocontrollo poco frequente, basta veramente un controllo al giorno e magari anche nemmeno tutti i giorni. Quindi basterebbe fare una glicemia una volta a digiuno e una volta magari alle 3 del pomeriggio il giorno successivo, che rappresenta il picco postprandiale, il momento in cui la glicemia durante la giornata si alza più di tutti, e ripeterlo in diverse giornate nel corso di un mese per avere un quadro della situazione. Ma per chi fa terapia solo con metformina non è necessario un controllo intensivo della glicemia. Tra l'altro parleremo oggi nel corso della nostra trasmissione di tante novità che sono sia sul fronte farmacologico della terapia sempre più cucita a misura del paziente, ma ci sono anche strumenti intelligenti che permettono alla persona con diabete di controllare il diabete con maggiore precisione e meno invasività. Dottor Bertuzzi. Questo è vero, oggi questi dispositivi che sono proposti soprattutto ai pazienti con diabete mellito di tipo 1 che hanno cioè necessità di terapia insulinica in diverse somministrazioni durante il giorno, sono dei dispositivi che oggi stanno migliorando sicuramente la capacità del controllo durante la giornata e favorendo anche l'accettabilità del paziente, perché riduce proprio tante volte la necessità di dover pungersi il dito. Quindi sono dei dispositivi... E migliora anche la qualità, no? di vita, ma anche nella relazione con la malattia. Certamente, perché si ha un quadro completo di tutto l'andamento delle glicemie nel corso delle 24 ore. Allora, è tempissimo di andare ai mercati. Devo andare ai mercati, sono pronta. E quindi via, linea alla regia. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo tornati insieme dal Salone del Risparmio, non trovavo il microfono ma guardavo Deborah che voglio raccontarlo agli ascoltatori. Cosa è successo? Che è la regina, del Salone del Risparmio. Io sono la sua ancella e il dottor Bertuzzi diventa pacchetto. Andremo a qualche congresso medico e la pagherò duramente. Anche Elena Ligios lo conferma, quindi continuate a venirci senza a trovare. Senza corona e senza scettro. All'800 24 00 24 stiamo parlando parlando di diabete, perché lo facciamo, perché oggi è la giornata mondiale della salute, che ha pensato proprio di dedicare, di fare, no, l'attenzione al diabete. 4 milioni di casi diagnosticati nel nostro paese, 1 milione di persone che non sanno di avere la malattia, un'emergenza sanitaria ed economica, ne parliamo in occasione anche del Salone del Risparmio, che assorbe, pensate, quasi il 15% del Fondo Sanitario Nazionale. Allora, dottor Bertuzzi, noi conosciamo bene i fattori di rischio, la famosa sindrome metabolica, stiamo parlando di diabete di tipo 2, lo sottolineiamo, è quel diabete che possiamo prevenire a differenza del diabete di tipo 1. Allora, c'è una concomitanza di fattori predisponenti, la famosa sindrome metabolica, quindi sovrappeso, ipertensione, colesterolo elevato. Non tutte le persone con sindrome metabolica però si ammalano poi di diabete, ma conta anche una sorta di predisposizione. Ci sono tra l'altro degli studi molto interessanti, ad esempio sembra ormai accertato che siano presenti sostanze potenzialmente diabetogene nell'aria che respiriamo, in quello che mangiamo e beviamo, anche a prescindere dalle calorie. Allora, ci racconta un po' lo stato dell'arte di questa ricerca che è andata a scandagliare un po' quei meccanismi che fanno sì che a parità di condizioni una persona sviluppi il diabete e un'altra invece no. Ci sono diverse segnalazioni in letteratura dell'associazione tra inquinamento, fattori quindi ambientali e incidenza aumentata di diabete mellito di tipo 2. Sono anche studi relativamente recenti. Quali siano questi fattori esattamente non è conosciuto. Comunque il meccanismo dovrebbe essere abbastanza chiaro, che è quello di un aumento dello stress ossidativo all'interno del corpo che induce l'insulinoresistenza. Cosa vuol dire in pratica? L'insulinoresistenza è quel meccanismo che fa sì che l'insulina nel corpo riesca a lavorare con difficoltà. Voi immaginate l'insulina come una chiave che apre la serratura e fa entrare lo zucchero nelle cellule. L'insulinoresistenza è come se la chiave non riuscisse ad aprire la porta perché c'è ruggine nella serratura. Ecco, i fattori ambientali potrebbero essere questi fattori che determinano una sorta di ruggine nella serratura o che riducono il numero delle serrature disponibili. Così è lo stesso meccanismo che l'obesità probabilmente innesca nell'indurre il diabete mellito di tipo 2. Allora, 800 24 00 24, chiamateci se non avete mai misurato la vostra glicemia, chiamateci se l'avete fatto ed è perfetta, chiamateci se la vostra glicemia è in quella che i medici dicono, no, la zona grigia, in una sorta di prediabete. Ricordiamo il valore, dottor Bertuzzi? Deve essere inferiore a 126 a digiuno. Chiamateci se avete ricevuto diagnosi e raccontateci la vostra convivenza con il signor diabete. Max da Milano, Alessandro da Torino, buongiorno, e Giorgio da Ancona. Max, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato e complimenti davvero per la trasmissione. Allora, io ho avuto il diabete diagnosticato nel 2007 dopo un intervento alla schiena e aver consumato una marea di cortisone. Sono obeso e la mia emoglobina glicata agli esami di gennaio era di 11.1, spero che non vi sia rizzi nei capelli, e adesso che ho fatto gli esami, dopo che sono stato un po' a regime, è scesa a 6.5. Le domande veloci sono queste qui. Primo, com'è che la emoglobina glicata può scendere così in 2 mesi quando so che invece dovrebbe avere più tempo? Secondo, volevo sapere se, siccome io diabetico, mia moglie è figlia di diabetici, mio figlio poteva anche lui avere il diabete, nel caso quando fare gli esami, mio figlio ha 19 anni. Grazie e vi ascolto per radio. Grazie Max. Grazie Max. Ha detto una parola, sono obeso? Sì. La riduzione, cioè io sto pensando, ci sono degli studi che avevano messo in relazione con l'obesità, però ho detto anche un altro concetto importante, è la terapia con cortisone. La terapia con cortisone scatena un diabete mellito di tipo 2, in questi casi si dice un diabete secondario a terapia steroidea, e quindi quando si interrompe la terapia steroidea il compenso glicemico normalmente riprende ad essere sotto controllo, magari semplicemente con la dieta. Quindi questa variazione così brusca di emoglobina glicata probabilmente è secondaria all'interruzione della terapia con cortisone, oltre probabilmente ad aver rivisto anche il proprio stile alimentare, ad aver fatto delle diete. Capita veramente di incontrare dei pazienti che ottengono dei benefici semplicemente dalla dieta veramente straordinari ci sono pazienti in terapia insulinica che dopo un'opportuna dieta e modifica dello stile di vita riescono addirittura con un diabete tipo 2 ad interrompere l'uso dell'insulina e a passare magari a dei farmaci assunti da assumere per bocca. Per quanto riguarda la richiesta sugli esami da far fare al figlio, e quindi mandiamo anche delle attenzione e delle raccomandazioni agli ascoltatori che hanno casi di diabete, parliamo sempre di diabete di tipo 2, scusate se lo sottolineo perché sotto la parola diabete si riuniscono due malattie che hanno delle dinamiche molto differenti, e quindi dottor Bertuzzi, casi in famiglia di diabete di tipo 2, i familiari che cosa devono sapere, quali attenzioni devono seguire? È ragionevole che in un paziente che ha entrambi i genitori con diabete mellito di tipo 2 o con familiarità il rischio di patologia sia molto aumentato. Si parla in alcuni dati anche di un rischio del 50% di sviluppare la malattia. Chiaramente è una patologia che insorge in genere nell'età adulta, quindi non sono in questo momento un ragazzo di 19 anni che è normopeso, che fa attività fisica. Sì, ecco, che è normopeso, quindi già una prima indicazione è di non aumentare di peso. È la cosa migliore, quello ovviamente di mantenere un peso corretto. Poi per eventualmente fare uno screening per la patologia basta la glicemia a digiuno fatta in laboratorio, ovviamente non con i glucometri. 800 24 00 24, adesso abbiamo un minuto, mi fa segno Marco per andare sulle strade, però posso andare un attimo ad Ancona, dici? Come facciamo a non andare ad Ancona? Guarda, ero già qui pronta a mettertelo proprio bene in evidenza. Insomma, dai, Giorgio, raccomandatissimo, sì. Buongiorno. Buongiorno. Come tutti i marchigiani. Senta, complimenti per la trasmissione, come sempre. Senta, sono un professore di educazione fisica di 69 anni, peso normalissimo, seguo una dieta ferrea da sempre, in quanto in gioventù studiai medicina, e ora mi è stata diagnosticata una intolleranza al glucosio per valore al digiuno di 115-120, la emoglobina glicata è su valori borderline 6-5-9 e la prova da sforzo, la prova da carico di glucosio è andata bene, va bene da 2-3 anni e continuo questa mia attività intensa e volevo sapere se, essendo mio padre stato diabetico, anch'io sono destinato nel tempo a diventarlo. Tutto qui. Dottor Bertuzzi, dove trova degli ascoltatori, delle persone che riescono a darle un quadro così preciso quasi come della se fosse situazione davanti a lei? Esatto. Voglio dire, prima delle strade, cosa possiamo dire al nostro amico marchigiano? Che vista la familiarità e visti i valori, probabilmente se lui non avesse rispettato un corretto stile di vita e non avesse un normale peso avrebbe già il diabete. In queste situazioni di alterata glicemia a digiuno comunque ha fatto molto bene a fare delle valutazioni cardiovascolari, perché il rischio di patologia cardiovascolare aumentato in maniera significativa nei pazienti con diabete, si è visto che aumenta anche nei pazienti che cominciano ad avere delle alterazioni di glicemia a digiuno, quindi è un paziente insomma è stato ben bravo. Seguito ben, allora motivato. Noi adesso andiamo a sentire che cosa si sta succedendo sulle strade, sulle autostrade. La tua amica è arrivata, la mia amica. Bene. Poi di che cosa parleremo di costi, perché siamo al Salone del Risparmio, e parleremo anche di dieta. Il dottor Bertuzzi ci darà le indicazioni che valgono per chi ha già sviluppato la malattia, ma per tenercela lontana quali sono gli alimenti da scegliere, quali quelli da evitare e che tipo di attività fisica ci aiuta. 800 24 00 24, datevi da fare, chiamate il nostro numero verde, noi ci sentiamo subito dopo le informazioni del traffico. Cuore e denari. Lo abbiamo anticipato e sottolineato in apertura di programma, qua al Salone di Risparmio. La prevenzione è un investimento molto redditizio sia per la nostra salute che per quella del nostro Servizio Sanitario Nazionale. In linea con noi ci sta, tra poco ci raggiungerà, dalla regia mi dicono che c'è, e quindi voglio salutare il professor Enzo Bonora, professore di endocrinologia all'Università di Verona e presidente della Società Italiana di Diabetologia. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, la portiamo al Salone del Risparmio. Perché? Perché insieme alla malaria, alla tubercolosi, il diabete è diventata una delle sfide più difficili per i sistemi sanitari di tutto il mondo. Il numero dei casi, come abbiamo detto, aumentano tanto che, secondo le vostre stime, fra 10 anni in ogni famiglia italiana ci sarà una persona con diabete, un soggetto prediabetico. E dato che, come il dottor Bertuzzi ci ha spiegato, il diabete non riguarda un solo organo o apparato, ma tutto l'organismo, richiede una malattia che richiede un'assistenza multidisciplinare e multiprofessionale, perché nel corso degli anni può cambiare caratteristiche cliniche e quindi creare bisogni assistenziali diversi che costano, tanto che attualmente l'assistenza medica ai circa 4 milioni di italiani con diabete costa al Servizio Sanitario Nazionale circa 16 miliardi di euro, pari al 15% del Fondo Sanitario Nazionale. Professor Bonora, insieme alla società scientifica che lei presiede, questo è un aspetto che avete monitorato e su cui avete anche delle proposte da fare. Ma guardi, le proposte ovviamente mirano a far sì che un'assistenza diabetologica come quella italiana, che possiamo dire con orgoglio è fra le migliori, se non la migliore del mondo, parlo dell'assistenza pubblica e questo lo dicono altri, possa migliorare ulteriormente. La grande sfida sarebbe quella di ridurre il numero delle persone col diabete in futuro. Per fare quello serve una prevenzione e la prevenzione, fra l'altro, non è tipicamente fatta dai diabetologi. I diabetologi possono dare un contributo, è il sistema che deve modificare qualcosa in maniera tangibile per far sì che in futuro il numero dei diabetici si riduca, altrimenti la spesa continuerà a crescere. Per quanto riguarda il numero degli esami, lascio da parte per un attimo il commento di Raffaele Cantone, che in occasione della prima giornata nazionale contro la corruzione in sanità non si è certo risparmiato, definendo la sanità, che per l'enorme giro di affari che ha intorno e anche e soprattutto per il fatto che, lo ricordiamo, anche in tempi di crisi è un settore che non può essere sottovalutato, bene, Cantone l'ha definita il terreno di scorribanda da parte di delinquenti di ogni risma. Professor Bonora, non le chiedo di commentare naturalmente l'intervento di Cantone, ma di fronte a queste frasi anche la persona si sente molto disorientata, anche un po' spaventato. Che cosa ciascuno di noi però può fare la sua parte, qualcosa si può e si deve fare, professor Bonora, ad esempio aumentare la consapevolezza. Credo che i cittadini siano sconcertati, gli addetti alle cure, noi siamo inorriditi, perché ogni giorno ci viene chiesto di fare particolare attenzione alla spesa che generiamo con le nostre prescrizioni, e vedere che ci siano persone che poi si approfittano del sistema in quel modo chiaramente ci fa arrabbiare, e uso un termine molto così edulcorato. Resta che noi dobbiamo fare la nostra parte, come ha detto lei. La nostra parte nel sistema può essere quella di far sì che le risorse vengano utilizzate nella maniera più appropriata. Ecco perché la Società Italiana di Diabetologia ha lanciato un programma di intervento in 7-8 ore almeno, dove si possono risparmiare soldi e liberare risorse, idealmente da mantenere nell'area della cura del diabete, per poter avere accesso ad esempio alla tecnologia, all'innovazione, certo, ai nuovi farmaci, alle nuove procedure diagnostiche e così via. E ci sono margini sicuramente di intervento per i quali noi ci siamo preso l'impegno di agire senza che nessuno ce lo dica. Professor Bonora, grazie per questo intervento, e quindi abbiamo anche analizzato questo aspetto di questa malattia che è molto importante, che per garantire proprio che l'assistenza alle persone con diabete nel nostro paese rimanga, certo, a un'assistenza a 3 stelle. Professor Bonora, grazie, ci sentiremo presto, buonissima giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti, arrivederci. Dottor Bertuzzi, allora, stile di vita, lo sentiamo sempre ripetere, tanto che c'è un po' quell'effetto dello status quo, accennava il professor Martelli. Sappiamo che dobbiamo cambiare, ma non lo facciamo. Le regole per prevenire a tavola il diabete. Quali alimenti scegliere? Gli alimenti a basso indice glicemico? Quali alimenti eliminare? Le bevande zuccherate? Dottor Bertuzzi. Allora, innanzitutto, sulla prevenzione, come ha detto il professor Bonora, molto lavoro deve essere fatto anche dai medici generici e anche dal il nostro dal sistema, insomma, nel complesso, con l'educazione dei pazienti ad una corretta alimentazione. Sull'alimentazione durante i consigli per una buona alimentazione derivano dalla dieta mediterranea, quindi un'abbondanza. La pasta, ma tutta la cosa, pensa diabete, dice oddio gli zuccheri, quindi non posso mangiare la pasta. Evitare gli zuccheri semplici, ovviamente, preferendo gli zuccheri complessi, meglio se integrali, quindi ricchi di fibre, ridurre i grassi saturi, i grassi di origine animale, e avere una dieta bilanciata, ricca ovviamente di antiossidanti, di fibre, di verdura, di frutta, in modo da avere anche un apporto di fibre e di antiossidanti che permettano quindi un regolare apporto calorico senza determinare degli stress ossidativi nei pazienti. Non mi ricordo più se avevamo parlato del bicchiere di vino, dottor Bertuzzi, del nostro amico che chiedeva se... Allora, il bicchiere di vino, uno a pasto, va bene? È permesso? È permesso, ci sono... Il vino rosso contiene degli ottimi antiossidanti e quindi ci sono degli studi proprio che hanno evidenziato come non è sicuramente dannoso, ma anzi possa avere degli effetti benefici per il nostro organismo. Allora, passo dopo passo si può anche prevenire il diabete, perché è importante ed è semplice fare attività fisica, un esercizio fisico, combattere la sedentarietà. Quanto è necessario fare, dottor Bertuzzi, in meno di un minuto? Le linee guida della Società di Diabetologia suggeriscono circa 150 minuti alla settimana, sono circa 20 minuti al giorno di attività fisica aerobica. Quindi basta una bella camminata a passo sostenuto. A passo sostenuto, impariamo anche a fare le scale piuttosto che a prendere l'ascensore, lasciare a casa l'auto prendendo i mezzi, camminando a passo veloce. Risparmi anche l'ambiente, guadagniamo in salute anche nell'ambiente. Allora, io vi saluto perché mi sembra che siamo arrivati al termine. Anche oggi, sì, esatto. Quindi ringraziamo il dottor Bertuzzi, che è a vostra disposizione, come sempre arrivano le mail a cuoredenari@radio24.it. Noi ritorniamo domani qua. Regina mia, ritorniamo. Ritorniamo va qua. Bene, cambierò l'abito con tutte della le corone Angela. Del mondo, naturalmente vi anticipo che domani parleremo degli stati generali dell'educazione finanziaria. E noi parleremo di yoga, piace molto. Ottimo, ai manager e a chi della si finanza, occupa di finanza. Ne hanno molto bisogno, più che altro direi. Riduce lo stress, ma non solo. A domani. Buona giornata a domani.